it's really something super fantastic here. You couldn't ever imagine this. Roger, we know about that. Could you go the other way? Go back the other way. Well, this guy Riggs, pretty spectacular. God, what is that there? That's Roger, hollow. That's what the hell is that? Go tango, tango. There's kind of light there now. Roger, we got it, we've marked it. Who's communication? Bravo tango, bravo tango. Buonasera, buonasera, altezze all'ascolto, questa è Lezione Universale di Esistenza, siete all'ascolto come sempre di Radio Wombat, io sono Mario e... sono solo questa sera perché sì, perché altre incombenze, strane vibrazioni e bieche grossolanerie hanno portato via da noi i maestri e gli ospiti che avevamo previsto per questa puntata. Quindi questa puntata non avverrà. Sarà semplicemente rimandata alla prossima. Alla prossima, ci sentiremo fra 2 settimane. Abbiamo un sacco di sorprese. Parleremo ancora di memoria dell'acqua. Affronteremo ancora il tema dell'acqua informata. Sveleremo che cosa è successo. Lo scopriremo anzi assieme alle bottiglie che abbiamo lasciato a giacere un ulteriore mese, a questo punto un mese e mezzo in più. Ci sono stati molti commenti da parte di chi ci ha ascoltato riguardo all'esperimento che abbiamo compiuto e per il quale vi rimandiamo alle scorse puntate. Se volete farcene di ulteriori, posta wombat @insiberia.net, le leggeremo nella prossima puntata assieme al maestro Ottani, assieme al maestro Ricky Gianco, con lo spirito dell'anagrammista Ciripeo. Ci saranno anche altre sorprese, ci saranno nuove figure che compariranno qui, ma c'è da aspettare. Dicevo, sveleremo la memoria dell'acqua, ci sono anche delle pistole da altri mondi che ci giungono. Per tutto questo però davvero c'è da aspettare ancora 2 settimane. Questa sera invece, che siete soli con me, ho pensato di far questo. Dunque, ho montato gli epitomi, i riassunti delle scorse puntate. Non li avevamo mandati, ne avevamo mandati soltanto 2 perché avevamo avuto un sacco di musica in diretta, un sacco di musica live che ha fatto sì che avessimo preferito mandare quella rispetto ai riassunti delle puntate. Quindi mandiamo i riassunti della puntata dalla 16 alla 21. Quelli ovvero che non abbiamo mandato in diretta, quelli dalla 22 e della 23, cioè le ultime 2 puntate, ancora no, perché li vogliamo ascoltare con i nostri ospiti e quindi li sentiremo nelle prossime. Allora, un saluto agli amici di Random 9 che ci hanno preceduto, alcuni spunti anche fra l'altro dal loro pad che prenderò per la prossima puntata, diretta wombat.vado.li per chi ci vuole scrivere in diretta, ma non ha senso che lo facciate perché io sto per non leggere più. Ho montato una cosa, la mando, rimango qua, ascolto, ma niente, non vi risponderò. E allora, facciamo questa cosa, sta per partire il sottofondo, sono, dicevo, dalla puntata dalla 16 alla 21. I temi delle puntate si possono trovare scorrendo indietro nella pagina Lezioni Universali di Esistenza, dentro a trasmissioni, sul sito, premendo sulla scritta gialla tutte le puntate, c'è il riassunto dei temi che abbiamo toccato, alcuni estratti li abbiamo montati qua insieme a delle canzoni, sono inframmezzati ad altre canzoni, ve li mandiamo in sequenza, tutto a tema ufologico, alienistico, misterico, come ci piace a noi. Un'ora di ascolto. Sono, dicevo, dalla 16 alla 21, iniziamo con Raimundo, ma prima ancora sentiamo una canzone che è Requiem, Magnifica Svolta, del dottor Bleso. Dottor Bleso, che è stato con noi ospite in queste puntate, questa è una sua canzone. La mandiamo, sentiremo anche le sue macchinette, la sua ugola e avanti tutta. Ci sentiamo magari dopo, se mi viene di fare un saluto, se no fra 2 settimane. Intanto buona guarigione, maestro Ottani. Ciao. Trascorsa, fatto tutto di corsa, cercando più tempo per me da trascorrere, coltivando più in fretta i miei hobby e magari una volta rispondere, cercare un tesoro e trovare un amico con cui fare sport, per poi tornare a correre, immaginare i 30 anni, da quando ne ho 5, prima una festa portavi da bere, ora porti bottiglie, prima parlavi per ore, ora cerchi una scusa per poi non esistere, il bicchiere non conta, che sia metà pieno comunque finisce. Anima mia, magnifica svolta, cambierei idea ancora una volta. Alzami mia nella tua rivolta, ne parli per dirmi che non te ne importa. Sosia, non mi riesce mai bene qualcosa, se non esce la prima poi buona, per questo si prova, se poi non funziona. Canto male, lo faccio per moda, vesto bene, lo faccio per me. Ti assicuro che quello che sembra un cliché resta quello che è. Il tuo Dio mi odia, se non sbaglio gli devo qualcosa, ma cosa vuoi farci? Passato una vita a strafarmi, non ricordo cosa. Anima mia, magnifica svolta, ancora una volta. Alzami mia nella tua rivolta, ne parli per dirmi che non te ne importa. Mio caro maestro, adesso tutto quello che ti voglio chiedere è questo. È possibile, o caro maestro, che un treno possa scomparire per emergere in tempi e luoghi diversi nello spazio e nel tempo? E ancora, maestro, i passeggeri sono forse ancora intrappolati in un loop temporale, completamente ignari del corso della nostra realtà, vivendo ai confini del tempo e dello spazio? Allora, non è solo possibile, ma è augurabile. Immagina vivere quindi all'interno di questo loop spazio-temporale, che poi loop spazio-temporale l'hai detto te, perché a me mi sono sorte tutta una serie di domande. Sì, l'ho detto io, è vero. Durante la tua narrazione, puntualissima, però nel senso mi veniva da pensare, wormhole? Rapimento alieno? Perché saltare a conclusioni affrettate, se possiamo saltare a conclusioni ancora più affrettate? Una nuova stagione. Se prima c'erano autunno, inverno, primavera ed estate, adesso ne arriveranno delle belle. Io parteggio per il bene. Sempre all'altezza. vecchi bastardi. A me mi viene da pensare che quel treno non andasse così veloce, però non lo so. Se solo tu sapessi la magnificenza del 3, del 6 e del 9, potresti avere la chiave dell'universo. Nikola Tesla. Vorrei fare una correzione. Sì, maestro, grazie. Ha saltato il numero più importante di tutti. Sì, correggi Tesla, per favore. Il 7. Il 7 è un numero che dire magico sarebbe un eufemismo. È il numero che è alla base di qualsiasi scambio tra la realtà e tutto quello che è, non so, l'antirealtà. E non è un caso che, insomma, i colori dell'arcobaleno siano 7, non è un caso che le note siano 7, non è un caso che questo numero appaia più e più volte all'interno della simbologia e dell'esoterismo. Cosa vuol dire camere? Beethoven. Io vorrei dire a Tesla questa cosa: una volta che c'hai la chiave dell'universo, che cazzo fai? Perché, cioè, ci chiudi tutti dentro e potrebbe essere un modo di affrontare la questione, ma di certo non esci. In questo universo siete voi che siete chiusi con me dentro e non io con voi. Ti ringrazio di aver fatto questa domanda. Vengono dalle Pleiadi, dalla costellazione del Toro. Nordici che rapiscono esseri umani e provano a come dire, ibridarli con questi nordici barra grigi. L'anagrammista Giulio Ciripeo VII. Ah, ma certo, sì, è un ex papa. Perché questa trasmissione ora va a fuoco. Salute all'inglese perché abbiamo parlato di nordici. Erano i Deep Purple. Two little men in a flying saucer flew down to earth one day. Looked to left and right of it, couldn't stand the sight of it, and said, let's fly away. They took a look at a western movie, somebody heard them say, if a horse can be a star, think how dumb the people are, we'd better fly away.

supersonic ships at your disposal if you feel so inclined. Nobody gonna travel second class, there'll be equality and no suppression of minorities. Well, alright. Let me take you on a little trip. I'm a supersonic rocket ship. In India e Siam appare il re del mondo benedicendo la folla, assiso in un trono sopra un carro d'oro, trainato da elefanti bianchi. Non indugiamo, anche perché non si confà a degli esploratori dell'universo. Il dottor Bleso. Buonasera, dottor Bleso. Buonasera. Non vengo ovviamente dalla Terra, ma vengo da un posto un po' lontano. Ma dottore è un titolo che danno a tutti voi oppure lei ha... No, ovviamente solo ai più importanti, tipo me. Pieni gli alberghi a Tunisi per le vacanze estive. Secondo di preparazione. A volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Allora, maestro, io se ti dico due nomi, ti dico due nomi. Io te ne devo dire altre due dopo. Red Ronnie e Jimi Hendrix. Sì, è bella anche questa. Io ti dico due nomi per partire: Red Ronnie e Jimi Hendrix. Ok, io dirò il Conte Dracula e Re Artù. La medium Sonia Benassi. Sì. Sì. Che ha... Collega. Collega. Red Ronnie è caduto nella trappola dell'anima di Jimi Hendrix, che gli ha teso questa trappola, e adesso non ci sono più, come dire, contatti, non ci sono più rivelazioni da parte nemmeno di Red Ronnie, perché Red Ronnie adesso è Jimi Hendrix. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco. Cioè, Red Ronnie adesso è un contenitore. L'ombra della mia identità, mentre sedevo al cinema oppure in un bar, ma spero che ritorni. L'inglese non ci sarà d'alcun aiuto davanti sì. A Dio. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Sì, sì, sì. E tu quale visione vedi in questo futuro? Che questa gigante struttura cristallina che galleggia nell'oceano e che ci permette di comunicare telepaticamente, che quindi sarebbe un parassita alieno, avrà un'influenza negativa o positiva per la specie? Io penso che nella sua testa avrà un'influenza positiva, ma è lo stesso ragionamento che farebbe un IA, no? In questo senso, quindi, come dire, non perde un pezzo di umanità in questo senso, o non ce l'ha proprio. Certo, certo. Non ce l'ha, secondo me non ce l'ha proprio, ma perché io parto prevenuto. Buonasera maestro, innanzitutto è un grandissimo onore per me porle questa domanda. Io sono Caterina da Londra, perché la vostra radio è conosciuta anche qui, e stasera le volevo chiedere qual è il rapporto sessuale più lungo tra le varie razze aliene. Anzi, un'altra domanda: ma gli alieni fanno sesso fra di loro? Cioè, ci sono dei rapporti sessuali completi fra gli alieni? E se sì, qual è quello diciamo più lungo tra le varie razze? per cui le faccio questa domanda è perché, appunto, se mai dovesse capitarmi di fare un incontro di questo tipo, qua almeno, ecco, posso essere preparata in maniera adeguata a questo. La ringrazio anticipatamente e non vedo l'ora di sentire la risposta a questa domanda. Grazie, maestro. Parapapappa, paraparappa. Sicuramente posso affermare che l'atto sessuale più lungo, più duraturo, avviene con il sesso interspecie, che è possibile. Come dire, riesce a riprodursi come fanno i funghi, praticamente, come spore. Bello. Ok. Può parlare di atto sessuale in quel caso? Ecco, in quel caso io non saprei, sinceramente, perché la mia mente materiale mi spinge a dire di no, ma il mio spirito, come dire, più elevato, invece mi spinge a pensare che sono un po' la stessa cosa. Chissà, solo forse sono barriere culturali le nostre che ci limitano, le vostre in realtà. Caro maestro, allora tagliamo la testa al toro. Se tu dovessi avere una relazione sessuale con una specie aliena, quale sceglieresti? Togliamo il se dovessi. Ho una predilezione per gli esseri a forma gassosa, perché ho scovato dei documenti. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Un po' di sottofondo, dottor Bleso, per noi? Arriva, potete sentire una cosa che viene, che va molto da dove sto io. Sì! Tipo una musica... Cioè va di moda sul suo pianeta. Va molto di moda, senti qua. Piccolo sketch per voi. Vi parlo dall'oltretomba. E spero che vi siate anche pentiti. La piramide di Cheope in realtà, come ci dice il prof Malanga, sarebbe quella di Khufrun o Khufu Khefre, una roba del genere. Un sistema ancora, di canali e di stanze doveva andare a fungere da medium proprio per il passaggio dell'anima del faraone da un involucro all'altro e di conseguenza renderlo immortale. Secondo me bisognerebbe riuscire con una sorta di intervento chirurgico di role playing proprio entrare come quando fanno Inception. Sì, esattamente, bravo. Però lì stai entrando dentro i sogni, qui devi entrare dentro una fantasia, che è una cosa forse più complessa. Inizieremo a parlare di simbologia e appunto questa simbologia sarà soprattutto legata da una serie di corrispondenze con il mondo animale e non solo. No, mi ricorda anche una puntata di Futurama. Vorrei iniziare con, diciamo, in questa prima puntata, vorrei iniziare con la prima nota. Il Fa simboleggia tra gli elementi il fuoco. È quello che più di tutti è il fuoco. Non è fuoco acqua, non è fuoco terra, è fuoco. Tutti da assumere come simbolo, come simbolo, come corrispondenze analogiche. In questo caso il Fa è il triangolo, quindi che simboleggia il fuoco. E i nostri antenati rivedevano quella stessa forma nel leone che domina e sta seduto con le gambe quasi incrociate, no? Le zampe anteriori tese, la savana, con la sua criniera al vento, per loro era inequivocabilmente il fuoco. Questa è la nota Fa, che oltre a essere appunto legata a quello che è considerato nelle poi simbologie successive il leone vincente, e non il leone vinto, che invece è un'altra figura simbolica che associeremo ad un'altra nota. Il leone vincente può essere, per esempio, spesso viene raffigurato nell'iconografia medievale, ma anche successiva, come un leone alato. Questo leone alato ha la caratteristica quindi di essere una chimera, se vogliamo. Ma noi non ci dobbiamo mai confondere quando abbiamo a che fare con le chimere nel mondo occidentale, perché quelle chimere sono e sono state sempre comunque prima dei totem. Un altro animale caro al Fa, l'ariete. Un po' meno del leone. No, non è la mia nota preferita. Quando arriveremo alla mia nota preferita ve lo dirò, però è nella top 5 delle mie note preferite. Dottor Bleso, che ne dice del Fa lei? Un po' campestre, bello, bello aggettivo. Troppo campestre. Adios. Il maestro magari ha, se ha un monologo, non lo so, se io, ha un monologo. Io c'ho un pezzo che fa al caso tuo, se hai un monologo. Sì, ce l'ho un monologo. Vai. È una citazione. Allora, so che abbiamo parlato di un leone, però provate a pensare al lupo. Alla doppia funzione che questo animale acquisisce all'interno delle nostre favole, dei nostri miti e delle nostre leggende. In alcune di esse, per farla breve, ci vuole magna la nonna. In altre invece ci allatta. Ecco, di solito quando ci vuole magna la nonna è maschio questo lupo. E di solito quando ci nutre e ci protegge invece è femmina. Fate voi le vostre considerazioni. Tutto inizia e tutto finisce. Definitely, no, probably, I gotta get it up. Lips, hips, head drip down her back, crazy. Body frame. She looked better than Beyonce, Alicia Keys, Halle Berry, Mr. Lee. Where she's from, no idea. That girl's an alien. And if I die before I wake, I pray that I'm in outer space. Fly away. Buonasera maestro e tutti gli amici ascoltatori di Radio Wombat. Qua è Caterina da Londra. Come sempre io la ringrazio anticipatamente non solo per la cortesia che sempre dimostra con noi ascoltatori, ma anche per la sua profonda conoscenza di argomenti a noi oscuri. Quindi grazie per illuminarci in questo cammino. Grazie maestro. Poi se volete parlare direttamente con me e non siete ancora in grado di farlo telepaticamente, vuol dire che uno o non avete sentito, non siete stati attenti o non avete affatto ascoltato le puntate precedenti di questa trasmissione, oppure siete contro di noi e vi verremo a cercare. Buonasera Merry Cristo, buonasera. Buonasera, posso dire che è un onore essere col maestro? Ho una domanda. Subito. Prego. Merry Cristo, nome e cognome o... Ah, ottima domanda. Sono i miei nomi. Perché, sono i tuoi nomi? Sì. Alla mia famiglia piaceva molto il Natale. Okay. E poi gli piaceva anche Gesù. E il mio cognome è Jesus. Plurale maiestates. Merry Cristo. Jesus. Jesus. Potete chiamarmi Merry Cristo. E quindi, insomma, i miei genitori erano abbastanza ambiziosi, anche perché vengo da una famiglia comunque povero borghese, diciamo. E mi hanno fatto nascere quindi sia a Milano, perché comunque potessi essere connesso alla nightlife, per esempio, al glamour, ma anche al breakfast. Certo. E mi hanno fatto nascere quindi a Milano e a New York, così che potessi essere bilingue, comunque insomma in ambito commerciale. E a New York perché? Cioè se a Milano per via del breakfast, sì. E a New York invece era per il lancio. Per il lancio, certo. Effettivamente certo. Sì, esatto. Claro. E poi nulla, comunque l'inglese l'ho sempre parlato appunto, però non ero... Io sono un po' insicuro. Io sono un po' insicuro, ecco. Quindi e che vuol dire questa cosa in inglese? Not sure of. Ok. Anello. Parliamo di fondamentalmente magia. Io la chiamerei scienza. Noi abbiamo No, no, no, no, no, no. No. Riduttivo, forse. Ah. Più che altro non arriviamo a comprenderla perché non vibriamo abbastanza alto. Indaghiamo. Quindi se ti rivolgi con gli occhi puntati al recipiente d'acqua, è quello il target. E l'acqua lo sai. L'acqua lo so. L'acqua lo so. L'acqua lo sa. Emergiamo. Sì. Cado a pezzi da un po'. Sono uno scheletro. Faccio l'amore però